turista, turista! Cari amici, benvenuti dal vostro Pino e permette signora la trasmissione che avrà un pescato alla gente e che mi manda sempre in rianimazione. Però mi pagano e io faccio. E mi pagano pure quei cazzi. Comunque, in me, questo non deve essere di te, però. Zio Pino, paga la pizza, zio Pino. Ah, state gente che sento da muffo uno scaffo che ti fa girare per tutta l'Europa. Allora, oggi siamo qua in diretta da Camigliatello. Che cazzo ci siamo venuti a fare, Camigliatello? Ci sono due pastori tedeschi, non hai capito? Sempre in compagnia di Maria Francesca. Bella Maria Francesca. Zeppi, io non dovrei stare di marcasse che erano di freddo. Ma siamo venuti a capire per gli asceno. Betta, che cazzo ci siamo venuti a fare? Non ti preoccupare, Maria Francesca, se vuoi te scaldo io. Comunque, ecco, l'avete sentito, grumenghiere per Francesco. Buonasera, zio P. Squit, squit. Sicuro cazzo, per Francesco. Un accenno di canzone per i nostri amici qua, su quale si passare tedesco. Sul cucuzzolo della montagna, con la neve di Camigliatello, avisco un canzone. Babbo, va, per piacere, per l'anima dei muori. Squit, squit, comunque, per carità, vediamo qui vicino la pista da sci. E vediamo questo chiosco di panini. Amico me, buongiorno, turista, turista, come va? E come va? Va male. E come cazzo parli, come va? Comunque, che ti va male? Da quando sei qua? Ci segno 1979. Ed hai 20 anni e 5 panini. Ti devi 20 anni e 5 panini, hai capito? Ha venduto forse... Come ha capito, Tu 79 ha venuto 5 panini. Bravissimo. Comunque, complimenti per buttato su. Grazie, grazie. Comunque, mi sa che i panini sono puro echiranno. Comunque, sono poco freddi. Avviciniamoci a questo struttore di sci. State calmo. Buongiorno. Due cazzo siete che te perso. Buongiorno, Rucazzo. Come funziona? C'è qualcuno da casa? No, no, ti puoi affangare. Voglio salutare i parenti tutta la cioè. Era madonna, manna. Come funziona? Ciao, su. Come funzionano queste cazzo di sce? Perdonami. Sì, basta che lei ci mette un po' piegato. E poi che succede? E poi può pure parte. E Giappino vola, la, visto come vola bene. Turista, turista! È brava Giopina, e brava! E c'ho Marietti su Tacemba, forever ever young!